andiamo col telefono, perché niente, noi con WhatsApp ancora non ce la facciamo, arriviamo sempre con i 30 anni di ritardo, e attraversiamo l'oceano, arriviamo in Messico, comunque nel continente sudamericano, in centroamericano in questo caso, dove appunto c'è un compagno del nodo, che insomma i compagni del nodo, come sapete, si moltiplicano e sono in giro per il mondo, perché altrimenti avrebbe poco senso quello che facciamo. Allora, intanto ciao, un abbraccio forte e lontano. Ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, noi siamo qui per parlare di un altro agguato, di un altro omicidio, questa volta di un compagno, diciamo, che si colloca rispetto al Codedi. Insomma, l'anno scorso parlavamo di quanto la violenza che si era schiantata sul Codedi probabilmente rappresentava una violenza terribile, che avrebbe però continuato negli anni in cui si chiedeva di resistere di più, ci si trovava di fronte forse un mostro più grande a cui comunque si era pronti a resistere. Questo succede appunto per le organizzazioni del Codedi, ma anche nelle piccole comunità, no? È esattamente quello che è successo, credo. Chiaramente sì, no? La violenza in Messico è sistemica, e in questa violenza sistemica, che in qualche modo ha molte linee, diciamo, è una violenza che pervade tutta la società, che ha a che fare con molte, insomma, molti livelli di relazioni tra narco, paramilitari, Stato e così via. C'è poi la violenza più direttamente politica, che è la violenza che reprime in certi casi i giornalisti, diciamo, che fanno inchieste rispetto a determinate connessioni, e in moltissimi casi ovviamente i leader comunitari, i militanti, gli attivisti, i compagni che in qualche modo lottano soprattutto per la difesa del territorio, che è nel sud-est, nel sud, diciamo, messicano, è fondamentalmente la lotta, la resistenza più tenace, perché è una zona che, riconfermato tra l'altro con il nuovo governo di questo oratore, è una zona strategica dove si vogliono fare zone economiche speciali, corridoi bioceanici, e che quindi ha bisogno di essere in qualche modo pacificata nei termini, diciamo, più repressivi della parola. E purtroppo è successo questo anche nella comunità di Amilcingo, che io personalmente tra l'altro conosco un po' in qualche modo, perché nel 2017 ho partecipato a un piccolo progetto di educazione popolare là, visto che è un posto abbastanza raggiungibile dalla città del Messico, ci si mette soltanto 3 ore tra vari spostamenti di autobus e così via. Era nata questa connessione, per cui in qualche modo io ho potuto anche conoscere il compagno Samir Flores Soberanes, che tra l'altro davvero era un compagno meraviglioso, era un compagno generoso, era un compagno che seguiva tutte le attività fin dalle più piccole, aveva 36 anni, 3 figli, eppure dedicava la sua vita intera al processo di autonomia del